giornale radio del Friuli Venezia Giulia. La tragedia di Vivaro, indagato il nonno del bambino morto ieri sera per detenzione di esplosivo e omicidio colposo. Cordoglio per la morte del presidente emerito Napolitano, il ricordo di chi lo ha incontrato nelle sue visite in regione. Crollano le assunzioni in somministrazione in Friuli Venezia Giulia, meno 16,2% nel primo semestre, ricerca IRES sui nuovi contratti. Il presidente regionale di Confartigianato, Tilatti, nel CNEL guidato da Brunetta, porta la forza del mondo artigiano. Ernesto Galli della Loggia, presidente dell'Associazione Friuli Storia, dal 2014 a Udine, un focus sulla storia contemporanea. Trieste Next si focalizza sull'intelligenza artificiale, secondo gli scienziati sta già rivoluzionando le nostre vite. L'archivio della Ferriera di Servola, tra i protagonisti di uno dei tanti eventi delle giornate europee del patrimonio. 12:31, buongiorno da Eva Ciuc e Rita Micoli. Cominciamo dalla cronaca. È stato sottoposto a sequestro il locale di Vivaro, in cui nel tardo pomeriggio di ieri è esploso un ordigno, un residuato bellico che ha ucciso Gabriele Cesaratto, di soli 10 anni. Il nonno, ferito e ricoverato a Pordenone, è stato iscritto nel registro degli indagati. Il paese è in lutto. Il giorno dopo l'esplosione che nel garage di nonno Silvio ha ucciso il piccolo Gabriele Cesaratto, 10 anni, scientifica al lavoro per accertare la dinamica dei fatti e un'intera comunità sotto shock. Poco prima che il reparto investigazioni dei carabinieri apponga i sigilli all'esterno dell'officina di Via del Pozzo, a Vivaro, incontriamo la nonna di Gabriele, moglie di Silvio Cesaratto, pensionato di 73 anni, che usava quegli spazi per riparare gli attrezzi di lavoro nei campi. Ferito alle gambe dalla deflagrazione, è stabile in ospedale, ci dice. Non ce l'ha fatta il nipote Gabriele, che veniva sempre qui col nonno, come indica un vicino. Dopo un tentativo di rianimazione sul posto, è morto al nosocomio di Pordenone. La deflagrazione è verosimilmente nel cortile interno dell'officina. L'onda d'urto ha mandato in frantumi i vetri. La procura del capoluogo della destra Tagliamento ritiene si sia trattato con molta probabilità di un residuato militare. Ha aperto un fascicolo a carico di nonno Silvio con l'ipotesi di reato di detenzione di materiale esplodente e omicidio colposo. Si era tesserato negli esordienti della locale squadra di calcio, la Vivarina, il piccolo Gabriele, come il padre Marco e prima ancora il nonno. Avrebbe dovuto fare il suo esordio dopo il compleanno, tra pochi giorni. Le autorità cittadine esprimono cordoglio e vicinanza alla famiglia, molto conosciuta in paese. In questa zona è all'ordine del giorno trovare i residuati, ci dicono più persone. Poco distante, sul greto del Cellina, un poligono usato per esercitazioni militari, anche se il sindaco Mauro Candido esclude ogni connessione. Vivaro, Lillo Montalto Monella, TGR Friuli Venezia Giulia. Per il Friuli Venezia Giulia è stato il presidente della pace, fu Giorgio Napolitano, il 13 luglio del 2010, il protagonista dello storico gesto di pacificazione con i capi di Stato sloveno e croato Danilo Turk e Ivo Josipovic a Trieste. Anche la scienza, eccellenza del territorio, aveva caratterizzato altre visite del presidente in regione. A Udine, poi nel 2012, il suo intervento all'università gemona la memoria del terremoto e l'elogio della ricostruzione. A Faedis definì l'eccidio di Porzus una aberrazione che portò partigiani a commettere atti orribili contro altri partigiani. Comune il cordoglio delle istituzioni e del mondo della politica del Friuli Venezia Giulia per la morte di Napolitano. Sentiamo il sindaco di Trieste, Roberto Di Piazza. Indimenticabile la cena presa con Josipovic, Turk e Napolitano e io con loro allo stesso tavolo. Poi ho dovuto anticipare perché mi arriva il messaggio del comandante Basile che alle 22:30 ci sarebbe stato l'inferno di acqua, che poi invece successe, per cui anticipai il tutto e poi con Napolitano un rapporto bellissimo che poi sono stato parecchie volte al Quirinale da lui. È nata quell'amicizia, quella stima e poi consapevoli tutti e due che avevamo fatto una giornata storica per la nostra città. Lei con il suo carattere esuberante, Napolitano sicuramente un po' più austero, come vi siete presi? Beh, qualche volta abbiamo avuto anche dei momenti di tensione proprio in funzione della manifestazione che stavamo facendo, però dopo hai visto alla fine, quando è arrivato Trieste all'inaugurazione della Sicily, mi andai prima avanti la bassa porra, poi Tondo, che era presidente della regione, poi arrivai io, mi fece un buffetto, ho detto beh, anche stavolta è andata. Andrea Saule, TGR Friuli Venezia Giulia. Consistente flessione del numero di nuovi contratti di lavoro in somministrazione in Friuli Venezia Giulia, un calo dovuto probabilmente al rallentamento della manifattura, dice l'IRES che ha analizzato i dati INPS sulla natura delle assunzioni negli ultimi 6 mesi. I dati semestrali confermano per il Friuli Venezia Giulia la tendenza al calo delle assunzioni nel privato già registrata. Nei primi 3 mesi dell'anno l'area di Pordenone segna il passivo più consistente di oltre il 7%, seconda Udine meno 2%, mentre Thiene, Trieste e Gorizia mostra un incremento del 3%. Continuano a calare in modo consistente, secondo l'indagine dell'IRES su dati INPS, le assunzioni in somministrazione in flessione di oltre il 16%, pari a 2.800 unità in meno. Una contrazione che in regione si segnala in modo più marcato che nel resto d'Italia, alle prese con lo stesso fenomeno. Nello specifico, le nuove assunzioni attraverso le agenzie del lavoro risultano calate di più a Pordenone, meno 20%, e Udine, meno 18%. Le lavoratrici donne e i giovani italiani sono i più penalizzati rispetto agli stranieri e over 50. Tra le tipologie contrattuali, in aumento le assunzioni a tempo indeterminato da parte dell'agenzia. Sempre sul fronte assunzioni, in generale, risulta più contenuta la contrazione di quelle a tempo determinato e stagionali. In caso i nuovi rapporti di lavoro di apprendistato per i più giovani sono stati oltre 200 in meno. I contratti di lavoro intermittente a chiamata legati al turismo sono invece aumentati del 14% e di ben il 32% solo a Pordenone. Si conferma intanto anche il fenomeno delle dimissioni volontarie, che in quasi l'80% dei casi sono la prima causa di interruzione dei rapporti a tempo indeterminato, in calo quelle dovute a crisi industriali, mentre sono in aumento i licenziamenti di natura disciplinare. Per il segretario regionale della CGIL William Pezzetta, i dati certificano il rallentamento sempre più consistente del settore manifatturiero in regione e il crollo degli interinali ne è uno dei primi indicatori, osserva. Occorre attivare subito il tavolo con le parti sociali per anticipare e prevenire le crisi, chiede Pezzetta, oltre a una seria riflessione sul fenomeno delle dimissioni volontarie che, rimarca, sono segno di un forte peggioramento della qualità e delle condizioni di lavoro. Lara Boccalon, TGR Friuli Venezia Giulia. Graziano Tilatti, il presidente di Confartigianato Friuli Venezia Giulia, entra nel Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro. Al CNEL, Tilatti è stato designato da Confartigianato Nazionale, occupando uno dei 2 posti a disposizione in virtù dell'apparentamento tra Confartigianato CNA e Casa Artigiani. Porto con me tutto il mondo artigiano del Friuli Venezia Giulia, grazie alla cui vivacità, forza e ingegno un esponente della regione può ora esprimere la visione dell'artigianato italiano in un così alto consesso, ha detto Tilatti. Una nomina che, evidenzia il segretario regionale di Confartigianato Enrico Eva, rappresenta un riconoscimento di stima e preparazione per l'intero sistema del Confartigianato del Friuli Venezia Giulia. Tra i suoi primi impegni, prosegue il segretario, il CNEL dovrà occuparsi dell'istruttoria sul lavoro povero e il salario minimo, questioni che danno la misura del ruolo strategico che potrà avere in questo momento particolare. Il mandato dei componenti del CNEL, presieduti dall'ex ministro Renato Brunetta, è quinquennale e si concluderà nel 2028. Al via la 17ª edizione della rassegna di incontri con l'editoria religiosa Ascoltare, Leggere, Crescere. Organizzata dall'Associazione Eventi di Pordenone, la rassegna si snoderà per 15 giorni in 12 comuni con 120 ospiti, 40 eventi e oltre 30 presentazioni librarie. In via il via da Udine questa mattina. A Palazzo Mantica la presentazione del libro Un riformista al governo di Marcello Reggiani, dedicato a Carlo Donat Cattin. 12 comuni friulani coinvolti, 120 ospiti, 40 eventi e oltre 30 presentazioni librarie e la rassegna di incontri con l'editoria religiosa Ascoltare, Leggere, Crescere, giunta alla 17ª edizione promossa dall'Associazione Eventi di Pordenone. A Udine, nel Salone d'Onore di Palazzo Mantica, la presentazione del libro Una riforma al governo, presenti l'autore del volume Marcello Reggiani, Maria Pia Donacchi Cattin, presidente della Fondazione Carlo Donat Cattin, e l'onorevole Giorgio Santuz, indagando l'attività di governo del politico, sindacalista ed esponente democristiano che dal 1963 al 78 ha ricoperto importanti ruoli nell'esecutivo. Il volume ricostruisce un passaggio importante della storia dell'Italia repubblicana. Giorgio Santuz, 5 volte parlamentare. È stato il politico che ha capito la trasformazione sociale che era in atto in questo paese e che l'ha guidata all'interno della Democrazia Cristiana. Maria Pia Donat-Cattin, presidente della Fondazione Carlo Donat-Cattin. Ho scoperto molto di quello che era mio padre lavorando sul suo archivio, ma rimane la grande passione per la politica intesa nel senso più alto, il legame con la società, con le classi più deboli, il grande desiderio di giustizia, di equanimità e soprattutto la tenacia e il coraggio. L'evento si è aperto con un minuto di silenzio in memoria del presidente emerito Giorgio Napolitano. Udine, Giovanni Taormina, TGR Friuli Venezia Giulia. Lo storico ed editorialista Ernesto Galli della Loggia è il nuovo presidente dell'Associazione Friuli Storia, la realtà culturale di Udine che dal 2014 organizza il premio nazionale dedicato alla storia contemporanea. Firma di punta del Corriere della Sera, Ernesto Galli della Loggia ha partecipato fin dall'inizio alla creazione del premio Friuli Storia come componente della giuria scientifica e succede a Giulio Giustiniani, scomparso nel 2022. Il direttivo rinnovato dell'Associazione Friuli Storia sarà composto anche da Elisabetta Nonino, Roberto Volpetti, Anna Comelli e da Tommaso Piffer, che assume il ruolo di direttore scientifico, mentre Chiara Filipponi diventa direttore generale dell'Associazione. Seconda giornata per Trieste Next, focus della mattinata, come l'intelligenza artificiale sta rivoluzionando le nostre vite. È possibile innamorarsi di un'intelligenza artificiale? Considerati gli ultimi sviluppi tecnologici, la risposta potrebbe essere tutt'altro che scontata. Se un tempo robot e questi software sono stati utilizzati per facilitare la vita degli esseri umani, per ripetere ad esempio compiti faticosi e usuranti, oggi esistono tentativi di riprodurre vere e proprie interazioni umane. È uno dei temi approfonditi da Trieste Next. ChatGPT, Do You Love Me? È stato infatti non a caso uno dei dibattiti. Roberto Trotta, docente di fisica teorica della Sissa di Trieste. Come l'intelligenza artificiale, ChatGPT e tutti questi sistemi correlati, potranno un giorno, forse già oggi, cambiare la natura delle relazioni umane, non solo tra umani e intelligenza artificiale, ma anche le relazioni tra di noi. In che maniera questa tecnologia ci sta condizionando o sta cambiando la maniera di vedere il mondo con la sua potenza generativa, con la capacità di poter discutere con noi di qualunque cosa nello scibile umano? E è possibile addirittura forse innamorarsi di un'intelligenza artificiale? Due cose stanno scatenando un po' di polemiche: lo sciopero degli attori di Hollywood e la denuncia dell'autore del Trono di Spade. Certamente, perché l'intelligenza artificiale ormai utilizza tutti i dati disponibili su internet per potersi allenare, quindi per poter produrre delle nuove creazioni, dei nuovi testi, dei nuovi video, delle nuove discussioni con gli umani. E la grande domanda è: a chi veramente dà profitto questo genere di tecnologia? Perché si avvale della generazione creativa degli umani, però poi molto spesso le persone che hanno fornito i dati di allenamento non vedono neanche un soldo, e quindi la questione è in che maniera possiamo rendere più equa questa tecnologia in maniera tale che i dati su cui si allena poi siano anche riconosciuti come fonte di profitto per chi li ha in realtà creati all'inizio. Trieste, Elisabetta Zaccolo, TGR, Friuli Venezia Giulia. Con una ricerca sulle strategie volte a migliorare il profilo nutrizionale degli alimenti ad elevato contenuto di grassi, il goriziano Francesco Ciuffarin, dottorando in alimenti e salute umana all'Università di Udine, sotto la supervisione di Sonia Calligaris, ha vinto il premio nazionale What For, promosso da Federalimentare. Il premio, alla 7ª edizione, vuole promuovere nei giovani ricercatori la cultura del trasferimento tecnologico e della comunicazione scientifica. È la terza volta su 7 edizioni che il premio viene conferito a dottorandi del gruppo di tecnologie alimentari dell'Ateneo Friulano. Il consumo eccessivo di grassi saturi, spiega Calligaris, è oggi una delle maggiori criticità nella dieta della popolazione italiana ed europea e sta portando a conseguenze gravi per la salute, come lo sviluppo di obesità e malattie cardiovascolari. La presenza di grassi saturi in alcune tipologie di alimenti è tuttavia indispensabile per garantire le loro desiderate caratteristiche sensoriali. La ricerca ha riguardato proprio la possibilità di sostituire i grassi saturi con grassi insaturi, che opportunamente strutturati simulano il comportamento tecnologico dei grassi saturi, preservando così qualità e accettabilità degli alimenti. Siamo alla pagina del tempo, il cielo è da nuvoloso a variabile, le temperature registrate alle 11, Trieste 21 gradi, a Gorizia 21 gradi e mezzo, a Pordenone 21 gradi, a Udine 20, a Tolmezzo 18 gradi, Tarvisio e Forni di Sopra 15 e mezzo, Piancavallo e Sappada 11 e mezzo, sul Monte Zoncolan 9 gradi e mezzo, sul Monte Lussari 7 e mezzo, sulla costa Lignano 22 gradi e mezzo, a Grado 22, dove le temperature del mare in queste due località è di 24 gradi. Le previsioni dell'ARPA per il pomeriggio: variabilità con schiarite ma anche possibili rovesci e qualche temporale più probabili dal pomeriggio. Previsione incerta. L'aria sarà più fresca dei giorni precedenti. Domani cielo in genere poco nuvoloso con atmosfera più secca dei giorni precedenti per venti moderati da nord o nord-est. Giornate europee del patrimonio, oggi e domani, che quest'anno hanno come tema patrimonio in vita. Un invito a riflettere sul patrimonio culturale immateriale come patrimonio vivo che custodisce valori culturali, tradizioni, modi di vivere e forme di conoscenza ereditati dalle generazioni passate, indispensabili per comprendere il presente e modellare il futuro. La soprintendenza archivistica del Friuli Venezia Giulia e l'archivio di Stato di Trieste hanno organizzato un evento dedicato alla Ferriera di Servola e al suo archivio recentemente dichiarato di interesse culturale. Nella sala Tucci sono intervenuti Valeria Sabatucci, archivista del gruppo Arvedi, e Francesca Frugoni, funzionaria della soprintendenza archivistica del Friuli Venezia Giulia. L'archivio è un tipico archivio aziendale, però ovviamente per un'azienda che ha una storia come quella di Servola, quindi una storia che è lunga, quasi 130 anni, è un archivio importante, quindi è tutto ciò che la Ferriera ha prodotto durante questi 130 anni per lo svolgimento della sua attività. Quindi parliamo di documentazione tecnica, tantissimi sono ad esempio i lucidi con particolareggiatissimi su proprio le strutture di produzione dell'azienda, ma ci sono poi anche tantissimi documenti sul personale, quindi una ricchezza grandissima anche per la popolazione, perché sono passati di lì, diciamo tutti i triestini hanno un nonno, un bisnonno che ha lavorato in ferriera, e quindi l'archivio racconta anche la storia delle persone, quindi ci sono i registri matricola, i fascicoli del personale, gli infortuni, e poi ovviamente sarà da scoprire. Ecco. Questo archivio ha un valore di memoria collettiva. È raro che un archivio aziendale si conservi nel tempo, perché soprattutto in questo caso abbiamo avuto tanti passaggi di proprietà, ad esempio l'Ilva, l'Ital Cider, il gruppo Pittini, Lucchini, fino ad arrivare ad Arvedi, e ce ne sono stati anche altri di titolari, e quindi di solito questi passaggi di proprietà sono sempre momenti critici, per questo noi non pensavamo sinceramente che l'archivio si fosse così ben conservato. In questo momento in cui l'area a caldo è stata chiusa, è stata dismessa, l'archivio diventa proprio una testimonianza viva di quello che era, di quello che è stato, anche dei luoghi, della memoria delle persone, che in pochi altri modi potranno essere raccontati se non attraverso invece questo archivio. E sempre in occasione delle giornate europee del patrimonio, a Miramare è prevista l'apertura serale del castello dalle 19 alle 22 al prezzo simbolico di 2 euro. Ad Aquileia ci sarà il concerto Promenade Sentimentale, un ponte tra due epoche, con inizio alle 18. Anche a Cividale, apertura straordinaria del museo fino alle 22, alle 20:30, Paolo Diacono racconta, ovvero storie di viaggi, di fiumi, di foreste, di animali, racconti dalla voce diretta dei Longobardi in collaborazione con l'Associazione di Ricostruzione Storica La Fara. Sono tantissime le iniziative in tutta la regione, c'è anche quella del Consorzio Culturale del Monfalconese con l'Ecomuseo Territori, che offre l'opportunità di visitare lo storico edificio di Villa Vicentini Minussi con una visita guidata curata dai ragazzi del Servizio Civile Universale. Ultima tappa della terza edizione di Vicino Lontano Mont, che propone in chiusura un incontro che allarga lo sguardo sulle terre alte di tutto il paese, dove i paesi si spopolano, la popolazione invecchia e il paesaggio perde progressivamente la mano dell'uomo. È un'Italia vuota che però contiene il nostro futuro, sostengono gli ospiti dell'incontro che si terrà alle 16 ad Ordolla. Silvia Di Pasio, esperta di processi partecipativi, e Filippo Tantillo, ricercatore, filmmaker, attivista e autore del saggio L'Italia vuota. Nell'ambito del ciclo didattico Astronomia alla scoperta dell'universo, il Civico Museo di Storia Naturale di Trieste, in collaborazione con il Centro Studi Astronomici Antares di Trieste, propone alle 15.30 nella sala incontri del Museo di Storia Naturale di Via dei Tomins la conferenza sull'orlo dell'abisso, i buchi neri ad oggi osservati da Event Horizon Telescope e strumenti simili. Relatore l'astrofisico Steno Ferluga. Alle 18 al Gran Hotel Savoia Excelsior Palace di Trieste, sala imperatore, Maurizio Eliseo racconterà alcuni episodi salienti della carriera del piroscafo Conte Verde. Una mano da sola non applaude la storia di Paolo Dall'Oglio, letta nell'Oggi a 10 anni dal sequestro e dall'assenza di notizie del fondatore della comunità monastica Mar Musa in Siria. Ne parlerà Riccardo Cristiano, autore del volume, in dialogo con Francesca Dall'Oglio, sorella di padre Paolo, al Circolo della Stampa di Trieste alle 18.15. Domani torna su queste frequenze Vita nei campi, la trasmissione della redazione TGR Friuli Venezia Giulia dedicata al mondo dell'agricoltura, agro, al mondo alimentare e ambiente. Sentiamone un'anticipazione. Vita nei campi, settimanale radiofonico di agricoltura della nostra redazione, in onda la domenica alle 8.50 su Radio 1 Rai. Domani in apertura, storia e realtà del formaggio Montage, un brand della nostra regione. A seguire, per la lettura dei corsivi di Licio Damiani, quello in cui descrive la pigiatura dell'uva ad opera dei satiri. A seguire, in regione si inizia a coltivare anche il fagiolo a zucchi, una leguminosa di granella nell'elenco delle carni vegetali. E ancora, avremo poi l'estrazione dei coloranti rossi dalla buccia durante le fasi di macerazione dei pigiati, per un nuovo spazio dedicato agli alberi monumentali del Friuli Venezia Giulia, il Larice di Malgallussari, e poi storia e tradizione del goulash tra le usanze dei mandriani ungheresi e la cucina regionale. In conclusione, andamento dei mercati agricoli, previsioni del tempo, il proverbio friulano della settimana. Appuntamento domani alle 8.50 su Radio 1 Rai con Vita nei campi. Udine, Armando Mucchino, TGR Friuli Venezia Giulia. Ed è un intero fine settimana dedicato alla specialità agroalimentare tipica di Cavasso Nuovo, quello che è iniziato per il weekend tra i cipollari, anche domani dalle 9 alle 12.30, poi dalle 14.30 alle 18. Entrata libera la mostra per il pubblico, con gli stessi produttori che accoglieranno le persone, spiegheranno loro il percorso fotografico. Oggi e domani a Trieste la 16ª edizione del Historic Day, inserito anche nell'occasione della giornata nazionale del veicolo d'epoca, promossa dal Club Amici della Topolino con il Comune di Trieste, grazie anche alla collaborazione con altri club confederati ASI del Triveneto. Alcune centinaia di vetture storiche saranno esposte nei luoghi di maggior interesse storico e artistico del centro cittadino, ma non saranno trascurate anche alcune zone della periferia. Ed era questa l'ultima notizia di questa edizione meridiana del giornale radio della TGR del Friuli Venezia Giulia. Alla parte tecnica Tommaso Vinoni e Mauro Ciccarelli. In redazione ha collaborato Valentina Veneruso. Ed Eva Ciucca, Rita Micoli, grazie per l'ascolto e l'augurio di un buon proseguimento di giornata. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.